Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio, ultima puntata della settimana della nostra nuova stagione dedicata ai vostri investimenti, ai vostri risparmi, alle vostre spese personali. E oggi proprio sul tema dei vostri risparmi e dei vostri investimenti ritorniamo. Da una parte la carota, dall'altra il bastone. Abbiamo scelto questa immagine un po' inconsueta forse per tornare a raccontare la situazione dei fondi comuni di investimento. Dopo 2 anni di assenza è tornato il segno più nella raccolta dei fondi comuni, lo ha prima rilevato il dato di agosto e poi ieri è stato diffuso da Sogestioni il bilancio riferito al secondo trimestre di quest'anno. Le sottoscrizioni di quote di fondi hanno portato nelle casse delle SGR e delle società di gestione quasi 2 miliardi di euro dopo i deflussi e quindi i riscatti, le fuoriuscite per quasi 15 miliardi del primo trimestre e quelli ancora più consistenti del 2008. A trainare il settore nel periodo aprile-giugno 2009 sono state in particolar modo le gestioni di prodotti assicurativi. Perché abbiamo detto che oltre alla carota c'è anche il bastone? Perché è in arrivo, lo spiegava 2 giorni fa il Sole 24 Ore, una misura che interviene sulla tassazione dei cosiddetti organismi di investimento collettivo che secondo gli operatori del settore sarebbe un intervento penalizzante. Oggi vi spiegheremo di che cosa si tratta e commenteremo anche questa nuova tendenza nella raccolta con i nostri ospiti, il professor Marcello Messori, presidente di Assogestioni, oltre che docente di economia dei mercati monetari e finanziari all'Università di Roma Tor Vergata. Professor Messori, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno, grazie. In tempi un po' più felici rispetto a quelli in cui l'avevamo interpellata in passato, si ricorda? Insomma, dovevamo continuare a parlare di segno meno nella raccolta dei fondi. Oggi cercheremo di capire cosa c'è dietro questi nuovi segnali e ne parleremo anche con la collega Isabella Della Valle del Sole 24 Ore Plus 24. Isabella, bentornata anche a te. Ciao Deborah, grazie, buongiorno a tutti. E anche Isabella stamattina descrive quanto ha raccontato, appunto sul Sole 24 Ore, descrive quanto ha raccontato ieri il bilancio trimestrale di Assogestioni. Il tema del fondo comune di investimento, un prodotto di investimento che avete abbandonato in massa negli ultimi mesi, raccontateci qual è oggi il vostro orientamento intorno a questo prodotto di investimento, se continuate a privilegiare per esempio il conto di deposito piuttosto che il titolo di Stato, anche se il trimestrale abbiamo già visto quello che è successo ieri, abbiamo toccato il rendimento addirittura negativo per il BOT a 3 mesi, oppure avete privilegiato altre forme di investimento. L'obbligazione bancaria per esempio è andata tanto largamente diffusa negli ultimi mesi proprio perché questa è stata la modalità preferita da parte delle banche per fare raccolta. Allora, tutto questo, se vi interessa, se vi appassiona, parlatene con noi all'800240024, scriveteci al 349-238-6666. Un'occhiata invece alla giornata di borsa, che è piuttosto positiva in Europa, ancora una volta, anche ieri per Wall Street, chiusura della quarta giornata consecutiva di rialzo. Ecco l'Europa: Parigi più 0,8%, Francoforte più 0,5%, Londra più 0,68%, FTSE MIB Piazza Affari più 0,92%, molto bene Fiat in rialzo di 4,5 punti, Bulgari promossa da Bank of America guadagna il 3,82, Campari più 3,80. Oggi parliamo di fondi di investimento, promotori finanziari anche. C'è questa notizia che circola tra le sale operative secondo la quale Intesa San Paolo sarebbe pronta a cedere la sua rete di promotori di Banca Fideuram e il titolo stamattina guadagnava parecchio, Intesa adesso in rialzo del 2,79%. Unipol più 1,81, Finmeccanica più 1,41, Unicredit continua a crescere più 1,37, con un più 1 troviamo anche Generali, Terna più 0,8 per Autogrill, Prismian meno 3,53, in calo piuttosto deciso da questa mattina, perdeva 4 punti, ha comunicato di aver interrotto i colloqui per l'acquisizione che invece aveva fatto volare il titolo nei giorni scorsi del gruppo olandese Draka Holding. Le parti non hanno raggiunto un accordo e il mercato boccia. Mondadori meno 1 punto, CIR, Banco Popolare meno 0,7% insieme alla ex Autostrade. Vola l'euro sul dollaro ieri al record storico del 2009, oltre 1,46, adesso ripiega leggermente 1,4592. Ma noi dobbiamo parlare di fondi di investimento, ecco la situazione del trimestre. I segnali di un'inversione si erano notati già nei mesi scorsi e ieri è arrivata la conferma. Dopo un 2008 da dimenticare, archiviato con un rosso di 140 miliardi, il risparmio gestito nel secondo trimestre di quest'anno è tornato al segno più. Per la categoria degli obbligazionari, il ritorno è stato netto e caratterizzato da generosi afflussi che sfiorano i 5,2 miliardi di euro. Ma la vera sorpresa è un'altra. Dopo i notevoli rischiatti, meno 6,2 miliardi, subiti tra gennaio e marzo, la categoria dei flessibili ha rialzato la testa mettendo a segno una raccolta di quasi 2 miliardi di euro. Gli azionari sono passati dai deflussi del primo trimestre agli attuali 1,6 miliardi di euro di flussi positivi. Complici anche i rialzi messi a segno dalle borse dai minimi di marzo ad oggi. Solo nel mese di agosto i prodotti italiani ed esteri venduti nel nostro paese hanno raccolto 2,8 miliardi di euro. Un risultato che non si registrava da 3 anni e mezzo esatti, cioè da molto prima che la crisi economica esplodesse seminando incertezza e paura tra i risparmiatori. Un segnale quest'ultimo che consente di guardare al futuro del comparto con un nuovo cauto ottimismo. Sì, avevo abbandonato la cuffia, Filippo mi guarda e sorride, meno male che non è arrivata la strigliata, però me l'ha data a microfoni spenti Isabella Della Valle, giustamente perché sono stata un po' imprecisa nell'introdurre l'argomento. Questi 2 miliardi di euro che le SGR sono riuscite a raccogliere in questi 3 mesi, considerati il secondo trimestre del 2009, non si riferiscono esclusivamente ai fondi comuni di investimento, magari l'industria vedesse una situazione di questo tipo, ma a che cosa esattamente, Isabella? Si riferiscono proprio all'industria del risparmio gestito nel suo complesso, quindi proprio tutti gli strumenti che fanno parte di questo settore. Infatti abbiamo monitorato appunto le GPM retail, i patrimoni previdenziali, i prodotti assicurativi, i fondi chiusi, i fondi aperti, insomma tutto quello che compone l'industria nel suo complesso. Professor Messori, presidente di Assogestioni, è comunque un segno più da guardare, direi, per quello che riguarda l'industria complessivamente, con soddisfazione. Le chiedo un primo commento, poi magari suddivideremo questo dato complessivo per vedere quali prodotti sono andati per la meglio e magari anche quale case di investimento si sono comportate meglio. Ma il sistema, dato quello che è successo in questo trimestre, è pronto a risalire la china? Le banche hanno smesso di pilotare i clienti verso il disinvestimento dei fondi per far comprare loro obbligazioni bancarie o no? Cosa è successo in questo trimestre? Beh, è ovvio che la prima affermazione da fare è che questo dato è incoraggiante. La seconda affermazione però deve riguardare le ragioni che hanno portato a questa inversione di tendenza. Io credo che almeno nel breve periodo vi siano due ragioni sostanziali. La prima è che la politica monetaria molto espansiva che hanno attuato le banche centrali per agevolare l'uscita dalla crisi ha allentato enormemente i vincoli di liquidità del settore bancario in generale e del settore bancario anche italiano. Dunque oggi le banche non hanno tanto il problema di sostituire prodotti del risparmio gestito con strumenti finanziari che diano liquidità più immediata, ma hanno piuttosto il problema di gradualmente spostare i risparmiatori da posizioni molto di breve termine a posizioni di medio-lungo per, come dire, riavviare una ripresa dei ricavi. Quindi il fatto di riportarli sui fondi è riconducibile a questa ragione? E poi vi è anche un'altra ragione, che i risparmiatori, ovviamente spaventati dalla crisi finanziaria, si sono rifugiati in posizioni di breve o di brevissimo termine che danno rendimenti molto poco elevati, se non in termini reali negativi, e quindi oggi si pongono il problema di valutare l'uscita dalla crisi e di rispostarsi verso posizioni di medio e di medio-lungo periodo. E quindi in questo momento c'è congiunturalmente una convergenza di interessi che porta a questo graduale spostamento, e mi sembra che i prodotti del risparmio gestito, anche a seguito degli insegnamenti che abbiamo tratto dalla crisi, possano essere un veicolo molto efficace ed efficiente per questo passaggio. 800240024, io torno a ricordare il numero verde per intervenire in diretta, discutere con noi dell'argomento di questa mattina. Ci sono degli ascoltatori che ci hanno già scritto, qualcuno di questi messaggi riguarda proprio un investimento in termini pratici. Un ascoltatore ci chiede, Gabriele, se ha fatto la scelta giusta scegliendo un par PAC, un piano di accumulo su diversi mercati emergenti con Azimut. Gabriele, noi ovviamente non le possiamo rispondere sulla validità, l'opportunità, la convenienza o meno di questo investimento. Magari possiamo spiegare agli ascoltatori che cos'è un PAC, se mediamente è una scelta di investimento corretta. Un altro ascoltatore invece, Isabella, ci dice: io ormai ho scoperto gli ETF, fondi comuni, addio. In realtà poi l'ETF è quasi un fondo comune, solo che si negozia in borsa in maniera diversa. Certo, anzi l'ETF in realtà è proprio un fondo comune, ma a differenza del fondo comune tradizionale è un fondo passivo, cioè sostanzialmente replica quello che è l'andamento di un indice di borsa non si discosta più di tanto da quello che è la sorte, insomma, del mercato. Il vantaggio è che sono strumenti che hanno dei costi indubbiamente più bassi rispetto a quelli dei fondi comuni. C'è anche da dire che in teoria una gestione attiva fatta bene di un fondo comune probabilmente dovrebbe dare risultati migliori, cioè dovrebbe superare l'indice, perché sennò il gestore che ci sta a fare? E infatti, e questo è un altro grande problema del settore dei fondi di investimento, messo sotto accusa negli anni passati, e per i costi, fondo che costa, e qualche volta sono costi non giustificati dal fatto che comunque magari il fondo non batte il mercato di riferimento verso il quale si confronta. Professor Messori, insomma, non abbiamo avuto solamente il fatto che la banca si faceva concorrenza interna negli ultimi anni, quindi in luogo del fondo suggeriva al cliente l'obbligazione, ma le croci per il sistema dei fondi sono state tante da combattere. Certamente vi sono margini di miglioramento notevoli. Vorrei però sottolineare che quando si confronta il rendimento di un fondo di investimento con il suo benchmark, si effettua un confronto non preciso. Nessun investitore, nessun risparmiatore sarebbe in grado di comprarsi il benchmark, che altro non è se non un indice dei mercati, e può approssimarlo con l'ETF, ma per fare questo ha un costo. E quindi noi in realtà stiamo confrontando, quando poniamo a confronto il rendimento dei fondi con il rendimento dei benchmark, un rendimento reale, effettivo, che ingloba anche per esempio i costi di distribuzione, con un rendimento di un indice che è all'ordo degli eventuali costi di distribuzione e di altri costi che il risparmiatore dovrebbe sopportare se cercasse di acquistarlo. Vorrei poi sottolineare che nel caso degli ETF vanno introdotte due elementi di riflessione. Il primo è che ormai gli ETF sono diventati di vario tipo, quindi il risparmiatore che voglia affrontare un investimento in ETF deve scegliere tra tipologie diverse, molto spesso anche complesse. La primo tipo di ETF era effettivamente un indice dei mercati. Sì, infatti, per esempio l'ETF sul mercato italiano era quello che banalmente replicava proprio l'indice di riferimento. Oggi abbiamo il FTSE MIB, ma allora poteva essere l'S&P MIB 40. Adesso invece abbiamo ETF che replicano l'andamento di pacchetti di valute, di pacchetti di obbligazioni, quindi ha ragione professor Messori, insomma, il mercato si è fatto diversificato per fortuna, ma per questo anche un po' più complicato. È anche un pochino più opaco e nasconde un po' di costi impliciti negli ETF. È stato tra l'altro un tema di cui abbiamo avuto modo anche di parlare negli ultimi mesi. Allora, un po' di punti interessanti da continuare a commentare nella seconda parte di Salvadanaio li abbiamo. C'è anche il tema però della tassazione di questi prodotti di investimento, tema del quale si parla da diverso tempo. Adesso a quanto pare potremmo essere pronti al cosiddetto intervento di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti da fonti, da investimenti in fondi, una cosa che abbiamo letto con un po' di preoccupazione sul Sole qualche giorno fa, solamente perché è qualcosa di abbastanza complicato da comprendere. Vedremo quanto riguarda anche i piccoli risparmiatori che scelgono questi prodotti di investimento, e adesso ed è pronto il professor Messori tra qualche minuto anche a fare proprio il professore universitario a spiegarci che cosa potrebbe cambiare qualora mantenessimo il nostro investimento in quote di fondi comuni dal punto di vista del fisco. Eccoci ritrovati in diretta stamattina. Lo stato di salute dei fondi di investimento, abbiamo parlato di questo segno molto importante di riprendere ripresa che complessivamente il sistema del risparmio gestito ha registrato nel secondo trimestre di quest'anno. Le banche stanno orientando la raccolta in maniera radicalmente diversa a quello che invece avevano, rispetto a quello che avevano fatto negli ultimi due anni, da quando è deflagrata e scoppiata la crisi dei mutui subprime. Allora, cosa vuol dire questo segnale di tendenza, come dobbiamo interpretarlo? E poi adesso cercheremo anche di addentrarci nel tema della fiscalità, un po' complicato, ma per fortuna, professor Messori, io la risaluto di nuovo perché ci ha raggiunto anche Marco Liera, caporedattore di Plus 24 del Sole 24 Ore. L'ho chiamato in aiuto per la questione del fisco, perché Marco mi conosce bene, insomma, sa che non sa neanche di che cosa parlo quando parliamo di tutto questo. Marco, bentornato. No, buongiorno a tutti. Allora, è una questione della quale si parla da molto tempo, una revisione della normativa fiscale relativa ai fondi di investimento. Qual è l'oggetto del dibattito intorno al quale ci concentriamo da anni? Qual è questa novità che è arrivata due giorni fa? Mi aiuti? Adesso la novità riguarda soprattutto i fondi non armonizzati, per i quali si prevede una ritenuta del 12,5% a titolo definitivo, così come accade attualmente anche per i fondi esteri armonizzati. Per i fondi italiani e per i fondi esteri armonizzati, che sono il 99,99% dei fondi comuni nel portafoglio delle famiglie italiane, non cambia niente. Certamente l'auspicio dell'associazione, non solo dell'associazione, anche di altri esponenti del mondo finanziario e politico, è quello di arrivare a una equiparazione dei fondi esteri ai fondi italiani, o meglio viceversa, nel senso che comunque si deve arrivare a una situazione in cui ci sia un uguale meccanismo di tassazione sia per i fondi italiani che per quelli esteri, e quindi che non ci sia l'attuale situazione di sfavore che vede i fondi italiani tassati per competenza, mentre invece i fondi esteri sono tassati per cassa. Questo crea un vantaggio a favore dei fondi esteri. Professor Messori, visto che le avevo promesso che l'avrei fatto fare il professore, lei, Marco ci ha già spiegato in sostanza qual è la situazione, ma lei è intervenuto in maniera abbastanza ansiosa, quasi dura, sul Sole 24 Ore su questa novità di cui abbiamo appena parlato, perché dice l'industria del risparmio gestito attendeva un provvedimento che la mettesse sullo stesso piano dei concorrenti esteri. Questa è l'intervista che le ha fatto Orazio Carabini. In realtà questo non è avvenuto. Beh, è proprio così, purtroppo. Adesso, per cercare di rendere semplice una materia complessa, il risparmiatore italiano che investa in un fondo comune italiano armonizzato deve corrispondere una imposta ogni anno sugli interessi e sulle plusvalenze, anche se non liquida la sua posizione, quindi su plusvalenze teoriche. Viceversa, lo stesso risparmiatore che investe in un fondo di investimento europeo, fino a pochi giorni fa armonizzato, e oggi anche un fondo non armonizzato, dovrà corrispondere la stessa aliquota d'imposta solo nel momento in cui liquida la sua posizione, cioè realizza concretamente le sue plusvalenze. Allora, questo naturalmente crea un insieme di svantaggi molto rilevanti per i fondi di investimento italiani. Uno svantaggio relativo al rendimento che viene comunicato ai risparmiatori, perché il rendimento dei fondi esteri è al lordo della tassazione, mentre quello dei fondi italiani è al netto della tassazione. E poi per il fatto che nelle fasi negative di ciclo i fondi italiani accumulano il cosiddetto risparmio di imposta, cioè uno stock che deve essere scritto in bilancio ma che non può essere investito, e che quindi interferisce pesantemente, distorce pesantemente l'allocazione e gli investimenti dei gestori professionali. Questi creano una situazione paradossale. Io credo che l'Italia sia l'unico paese al mondo che penalizza i propri fondi di investimento, i propri attori nazionali, e questo, come sottolineavo nell'intervista che lei ricordava, è un po' curioso, soprattutto per un governo che si dice così attento per gli interessi nazionali. Insomma, vedremo allora se questa potrà essere considerata, professor Messori, una partita chiusa, visto che, come anticipavo prima, in ogni caso questo intervento, che è stato preso per decreto e peraltro inserito in una norma varata per ovviare ad una procedura di infrazione della Commissione europea, una cosa quindi ulteriormente complicata, visto che è in procinto di essere avviato anche un intervento più complessivo di riordino generale del regime tributario applicato a questi strumenti di investimento, secondo lei è una partita che si riapre? Chiederete questo? Ma io confido che si riapra, certamente, però più tempo passa più assistiamo a una crescita relativa o a un decremento più limitato della consistenza dei fondi di investimento europei esteri e una, come dire, perdita di peso dei fondi di investimento italiani. E questo, come dire, è davvero un peccato, non per ragioni nazionalistiche, ma perché, come è noto, l'Italia ha una ricchezza finanziaria estremamente elevata rispetto al proprio prodotto interno lordo e quindi una allocazione efficiente di questa ricchezza potrebbe, come dire, agevolare lo sviluppo economico del paese, usando un po' il gergo degli economisti, potrebbe aumentare il tasso di crescita potenziale del nostro paese. Quindi la questione non è una questione di bottega, tra virgolette, cioè non è una questione che riguarda tanto soltanto il settore del risparmio gestito e i fondi di investimento italiani, ma è una questione che riguarda, come dire, le prospettive del nostro sistema economico. E comunque noi la dobbiamo ricondurre ad una mera questione fiscale adesso, professore, e alle 12 veramente trattarla è complicato, è abbastanza indigesto. Allora io direi di ritornare più banalmente al tema del nostro investimento in fondi comuni, sentendo anche le considerazioni dei nostri ascoltatori. Filippo dalla provincia di Frosinone, benvenuto tra di noi. Sì, la ringrazio, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io volevo segnalare un problema di esperienza personale, perché io in passato ero titolare di fondi lussemburghesi, che poi, a modo proprio dalla mia banca, sono stati trasformati in fondi, sono stati, diciamo, ricompresi, sono stati omogenizzati, facendo sparire per esempio un fondo Cina che io avevo e sono stati trasformati in qualche altra cosa. Contemporaneamente mi è stato proposto di fare dei fondi di accumulo, che anche sentendo voi altri sembravano le formule più convenienti per poter alleggerire gli eventuali oscillazioni di mercato. Però sì, contemporaneamente io seguito a rilevare, a segnalare l'aspetto dominante, e quindi nella negoziazione tra cliente e banca l'aspetto svantaggioso per il cliente, perché la banca, nel momento in cui vai a dare la somma d'ingresso, si prelevano intanto il 4,75 di commissione, poi il contratto dura 5 anni, se tu dopo 2 anni o 3 anni vai a consolidare in un modo o nell'altro, e scopri insomma che le commissioni applicate ne escono fuori di altra natura, giusto Filippo? Ti dico, intanto si sono presi il 4,75 sulla somma d'ingresso, però poi ti dicono che però questo 4,75 diventa il 3,18 sul PAC, sulla somma che vai a accumulare. Però la somma mi sembra veramente un tasso elevatissimo. Quindi in sostanza è una sorta di complicazione, di opacità, l'abbiamo definita prima, Filippo, che le rende del tutto insoddisfacente anche il rapporto con la propria società, appunto con la società che le gestisce il suo denaro. Peraltro Marco Liera, ritorno con te. Da anni abbiamo a che fare ogni estate, viene pubblicato ogni estate, con questo impietoso rapporto di Mediobanca, che indica proprio nella opacità della struttura dei costi dei fondi come uno dei punti dolenti, una nota dolente. Il caso di Filippo mi sembra abbastanza emblematico in questo senso. Ma lo studio di Mediobanca è soprattutto sulla sottoperformance dei fondi comuni rispetto agli indicatori dei mercati in cui investono, per esempio i fondi azionari, che rendono tendenzialmente di meno degli indici dei mercati azionari. Il problema che sollevava il nostro radioascoltatore è sui costi iniziali, che peraltro non rappresentano tutti i fondi comuni, perché anche il nostro radioascoltatore potrebbe benissimo scegliere i suoi fondi comuni tra quelli che non presentano commissioni di ingresso, magari non sono quelli venduti dalla sua banca. Allora qui entriamo in un altro problema, e cioè non tutte le banche distribuiscono tutto l'universo di fondi, anche se c'è una tendenza, soprattutto presso le banche online, le banche via internet, a collocare un universo di fondi di diversi gestori, molti dei quali non presentano commissioni d'ingresso. Peraltro io non è che baserei tutta la scelta dei fondi sull'esistenza o meno di una commissione d'ingresso. Certamente la commissione d'ingresso, se viene pagata in assenza di un'adeguata consulenza, e la consulenza la deve prestare o la banca o il promotore finanziario, è un fondo comune evidentemente che non dovrebbe essere sottoscritto. Tra l'altro l'ascoltatore ci diceva anche definitivamente tramontato, almeno secondo le mie esigenze, anche il mito del PAC, il piano di accumulo. Da quello che ascolto, da quello che leggo, lui dice sempre la miglior scelta di investimento, perché ovviamente magari si riesce a compensare la volatilità del mercato acquistando più quote del fondo quando questo scende, eccetera. La dinamica insomma del PAC l'abbiamo presto spiegata, ma non è che questa sia la regola come dire, Marco, aurea, bisogna vedere anche quando il PAC lo si inizia, quindi magari ovviamente per vederne tutti i benefici. Guarda, il piano di accumulazione va benissimo dal punto di vista psicologico e emotivo, soprattutto perché costringe i risparmiatori a investire mese dopo mese, anno dopo anno, che è anche un po' la frequenza tipica della formazione dei risparmi. Dopodiché ci sono abbondanti studi nella letteratura che si è dedicata, negli studi che si sono dedicati a questo argomento, che dimostrano come probabilisticamente sia meglio investire in un'unica soluzione per chi è fortunato ad avere tutti i soldi subito, piuttosto che dilazionare, spalmare l'investimento in più rate, perché soprattutto se stiamo parlando di mercati che negli ultimi due secoli sono andati a rialzo, ed è il caso del mercato azionario americano, avrebbe fatto bene comunque, in presenza di un orizzonte temporale abbastanza lungo, chi avesse investito tutto in un'unica soluzione. Però ripeto, questa è una situazione che riguarda alcuni risparmiatori che hanno a disposizione un capitale in un'unica soluzione. La normalità è quella di un risparmio che si forma periodicamente. E poi è comunque una normalità sempre molto individuale, che ha a che fare con le scelte di con le nostre esigenze. Però finanziariamente, se guardiamo all'operazione dal punto di vista strettamente finanziario, l'investimento in un'unica soluzione è quello che a lungo andare dà le migliori soddisfazioni, piuttosto che l'alternativa che è quella di spalmare l'investimento su più rate. L'ultima domanda al presidente di Assogestioni, Marcello Messori, prima di sentire la considerazione di Enrico da Firenze, che mi spendo fra qualche minuto. Professor Messori, come chiudiamo questa conversazione con lei relativamente a questo prodotto di investimento che tutto sommato le famiglie hanno abbandonato, ma che adesso a quanto pare avrebbero intenzione di tornare a rimettersi in portafoglio? Peraltro le vorrei anche chiedere che fine ha fatto quel famoso tavolo con Banca d'Italia, che è stato attivato almeno un anno e mezzo fa e intorno al quale si doveva proprio discutere della situazione dell'industria del risparmio gestito nel paese. Ma mi lasci rispondere cercando di individuare tre punti. Il primo riguarda questioni che erano state sollevate dal signor Filippo. Io mi rendo conto che per un risparmiatore è difficile, anche forse poco interessante, distinguere tra i costi che fa pagare il gestore su un fondo di investimento e i costi di distribuzione, però mi permetta di sottolineare il settore che il nostro ascoltatore, che il problema che ha sollevato riguarda i costi di distribuzione. E in effetti tutta i riscontri empirici mostrano che in Italia, rispetto agli altri paesi europei, sono più elevati i costi di distribuzione e sono allineati o addirittura leggermente più bassi i costi che fanno riferimento alla pura gestione, cioè che riguardano la costruzione del fondo di investimento. Il problema qua è che però dovrebbero essere costi trasparenti, professor Messori, poi ma più lo alti sono, più bassi. Lo sono perché sono ormai vi è un indice che non solo dà la sintesi dei costi, ma addirittura da circa 7 anni dà anche le diverse componenti di costo. Quindi un risparmiatore che voglia effettuare un investimento informato dovrebbe incominciare a capire dove pesano i costi e quindi se vale la pena sottoscrivere quel prodotto rispetto a un altro concorrente e qual è l'ammontare complessivo del costo. Riguardo al problema del tavolo della banca coordinato da Banca d'Italia, a cui ha partecipato anche Consob e a cui ha partecipato il Ministero dell'Economia, naturalmente la crisi finanziaria ha bloccato una serie di decisioni che erano state assunte a quel tavolo e che avrebbero dovuto tradursi in iniziative di policy. Vi è una novità interessante che riguarda l'iniziativa di Banca d'Italia rispetto ai rapporti tra capogruppo, in particolare capogruppo bancario e SGR, e finalizzata a aumentare il grado di autonomia, rafforzare il grado di autonomia delle società di gestione del risparmio che, non dimentichiamocelo, devono operare sempre nel solo ed esclusivo interesse del risparmiatore e dell'investitore. Per quanto riguarda infine il terzo punto, come dobbiamo valutare in prospettiva questo risultato positivo, io credo che forse i risparmiatori italiani si sono sono stati capaci di apprendere un insegnamento dalla crisi, e l'insegnamento essenziale che la crisi finanziaria ci ha dato è che i rischi sono di vario tipo, non ci sono solo rischi di mercato, ma vi sono anche rischi di liquidità e rischi di controparte, che delle garanzie di tipo assicurativo non necessariamente coprono tutti questi rischi, e che quindi un prodotto trasparente, diversificato, come quello dei fondi di investimento può diventare uno strumento efficiente nel dopo crisi. Insomma, meglio un fondo che è un'obbligazione Lehman, questa in sostanza è la sintesi, perché quantomeno magari poi non saremo soddisfatti per come ci vengono trasmessi i costi, per come sono i risultati, i rendimenti e le performance, però quantomeno i fondi diversificano. Esattamente, io spero, auspico che anche i settori miei associati sapranno leggere questa opportunità e migliorare ulteriormente il servizio ai risparmiatori e ai clienti. Professor Messori, grazie molte per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, buona giornata, a presto. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Ci risentiamo a questo punto forse fra un altro trimestre per verificare se le note positive dell'ultimo considerato si saranno mantenute. Enrico da Firenze, buongiorno. Buongiorno, senta, brevissimo, una considerazione. Io e mia moglie si rimase molto amareggiati, no? Da un investimento in fondi bilanciati presso la nostra banca, erano fondi Arca. Li comprammo e poi cominciarono a calare per diverso tempo, finché non tornarono in pari un paio d'anni fa. A questo punto noi trovavamo, io almeno, molto conveniente investire la somma in obbligazioni della banca o del gruppo, e mi davano una proposta di questo tipo, e sono stato benissimo con loro: tasso fisso e capitale garantito. Mm-hmm. Erano obbligazioni biennali in cui io, loro mi hanno detto, chiaro e tondo, tra 2 anni le rendiamo nel conto corrente i soldi che lei ci ha dato, ogni 6 mesi le diamo gli interessi, e mi danno, e concordai quelle, come tasso garantito, alcune volte 3,5 lordo e altre volte 4,5. In ogni caso, Enrico, per sintetizzare, perché sto chiudendo, mi mancano pochissimi minuti, vorrei lasciar concludere a Marco Liera e Isabella Della Valle. Il tema è che anche Enrico è stato invitato a spostarsi dal fondo, in questo caso anche perché non rendeva secondo le aspettative, verso l'obbligazione bancaria. In soldoni, Marco Liera, è successo questo, quell'atteggiamento che poi le banche hanno largamente adottato nei 2 anni successivi rispetto al tempo indicato da Enrico. Forse la banca aveva sbagliato prima a vendere un fondo bilanciato, perché non era adatto alle caratteristiche del nostro radioascoltatore. Da quello che emerge da ciò che ha detto, evidentemente siamo di fronte a un risparmiatore prudente, quindi il fondo bilanciato non era un prodotto adatto alle sue caratteristiche. E quindi, insomma, ha fatto in un secondo momento il suo lavoro, la banca ha individuato. Dopodiché bisognerebbe confrontare la efficienza dell'obbligazione che gli è stata venduta rispetto a dei normali titoli di Stato. Mm-hmm. Poi magari si scoprirebbe che dei titoli di Stato di uguale durata gli avrebbero dato un rendimento superiore. Ma pazienza, voglio dire, quello è un problema secondario. L'importante è che gli si venda un prodotto che è aderente alle sue caratteristiche. Isabella, ci rimangono pochi minuti di tempo, però magari una lettura un po' più dettagliata rispetto a quanto è accaduto in questo trimestre possiamo darla. Tra l'altro, proprio questi fondi bilanciati sono in rosso, mi sembra abbastanza serio, nel secondo trimestre del 2009. Hanno perso qualcosa come 9 miliardi, vedo. Sì, diciamo che i fondi bilanciati non sono propriamente i prodotti di punta, ecco, non vengono acquistati a man bassa, diciamo così. Che dire, insomma, questo trimestre mostra sicuramente un dato molto positivo, anche perché il trimestre precedente, nel primo trimestre dell'anno, appunto, c'era stata una perdita di 15 miliardi, ma nell'ultimo trimestre del 2008 non dimentichiamo che la perdita era di 52 miliardi, per cui insomma un dato del genere è comunque un dato incoraggiante. Ecco, come avevi anticipato anche tu prima, qua si sta parlando di tutta l'industria del risparmio gestito nel suo complesso, e appunto si può vedere che una grossa mano, diciamo, a questi flussi è stata data proprio dalle gestioni di prodotti assicurativi, che hanno incassato poco meno di 6 miliardi di euro nel trimestre. Sono andati molto bene anche i fondi chiusi, che hanno incassato qualcosa tipo 300 milioni, e invece rimangono ancora in rosso le gestioni patrimoniali retail, alle gestioni patrimoniali in fondi, quindi un rosso un po' meno cupo rispetto sempre a quello del trimestre precedente, comunque sempre rosso. Che dire, insomma, sembra che ci sia un ritorno di attenzione verso il risparmio gestito, cosa che appunto fino a qualche trimestre fa sembrava veramente ormai messo definitivamente in soffitta. Quindi qualcosa si sta muovendo, l'abbiamo visto anche nei dati mensili di agosto, dove il settore ha portato a casa 3 milioni di euro di raccolta, e anche il dato interessante che viene fuori è che comunque tipo i prodotti azionari dall'inizio dell'anno viaggiano con un saldo positivo per oltre un miliardo, insomma, quindi qualche cosa all'interno delle scelte dei risparmiatori sta cambiando, forse un po' di fiducia in più, un po' di propensione al rischio in più. Quindi se i risparmiatori stanno facendo tra virgolette la loro parte, riesponendo parte del portafoglio, i gestori facciano la loro. Marco Liera, 20 secondi, non per essere maleducata con te, ma il tempo corre. Come vedi domani a plus 24? Ci occupiamo di previsioni, di economisti e analisti sui mercati e sulle economie. C'è ancora molta confusione, previsioni in ordine sparso, ma l'importante è che i lettori sappiano anche leggere dietro queste previsioni proprio l'incertezza che caratterizza questo momento. E francamente un consiglio: basare le proprie decisioni soprattutto sulle caratteristiche personali prima ancora di guardare a delle previsioni o di formulare addirittura direttamente queste previsioni. Grazie a Marco Liera, responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore, dove ritorna tra qualche istante anche Isabella Della Valle. Noi ci risentiamo lunedì alle 8.15 con Soldi e Dintorni e alle 12.15 con Salva Danaio. Buon fine settimana a tutti.